31. All'alba sono andata da lei, la donna che molti chiamano strega, la madre di Peter, mio cugino, morto in battaglia, la donna che ha dato a Sir William, mio nonno, 8 figli. Stava pregando, le braccia larghe e i palmi rivolti in alto. Recitava frasi nella sua lingua, musica misteriosa. Dovevo parlarle del sogno. Timore e ansia mi hanno attanagliata la notte intera. È stata una strega anche per me, lo so bene. Ricordo la diffidenza, l'angoscia. Dicono che può fermare le rapide, deviare i fiumi, incenerire i nemici, che può guarire i malati, favorire raccolti, propiziare la fertilità, richiamare i morti, trasformarsi in animale. Non sapevo come rivolgermi a lei, eppure dovevo. Sono rimasta a guardarla. Seguivo i gesti della preghiera al sorgere del sole, fino a quando non si è accorta di me che l'osservavo dall'altra parte della finestra. E ha fatto cenno di entrare. Ha messo l'acqua sul fuoco, ricambiato il mio abbraccio, ascoltato le mie parole di dolore. Le ho detto di aver sognato Peter. Mi ha guardato negli occhi, ha detto: racconta. Ho detto ciò che ricordavo. Peter scavava una fossa, ma la terra era dura, il badile si spezzava. Philip e Joseph Brent caricavano una bara su una barca. Nella barca c'era nonno William, mi aiutava a salire. Mentre raccontavo, l'espressione di Molly cambiava, si faceva meno sofferente. Mi ha chiesto se il nonno diceva qualcosa, ho risposto che non lo ricordavo. Mi ha detto che ci sono modi per aiutare il ricordo, rendere le immagini più chiare. Mi ha chiesto il bracciale. Lo ha tenuto tra le mani vicino alle labbra che sussurravano frasi. Lo ha esposto al fumo che saliva dal bracciale acceso. Ci ha soffiato sopra prima di restituirmelo. Ha detto che il bracciale era prezioso e non era un caso che fosse giunto fino a me. Mi ha chiesto di Londra, di Peter, di ciò che avevo visto. Ha detto che stava per mandare i suoi figli a Montreal. Zio Daniel provvederà ai loro bisogni. Avranno una casa di pietra, cibo a sufficienza, lezioni di inglese e matematica. Mi ha chiesto se volevo partire con loro. Ha ascoltato la mia risposta. Non sarei andata via, nemmeno in catene. Ha sospirato e sorriso. Vivrai in casa mia, ha detto. Non è bene che una donna della mia età rimanga sola. Il sole non era ancora alto. L'ansia era svanita. Una strana calma avanza dentro di me.